La guerra in sostanza è iniziata. Quale ne sarà l'estensione è tutto da vedere, ma la notte ha portato la prima rappresaglia iraniana per l'uccisione del generale Soleimani nella forma di raid sulle basi americane in Iraq. La guerra, in sostanza, è iniziata anche in Libia, dove il generale Haftar si prepara a muovere su misurata e l'Europa prova a trovare una qualche forma di strategia comune, senza grandi risultati, a dire il vero. Gli altri fronti più italiani sono quelli delle crisi aziendali, con lo sblocco della vicenda dell'Alto Forno 2 che porta ad una schiarita per Ilva, con Alitalia ancora in mezzo al guado, con Mercatone 1 che proroga la cassa integrazione per 1.600 persone. Il lato politico è tutto nelle tribolazioni della maggioranza sulla prescrizione e in quelle dei 5 Stelle sulle restrizioni. Istituzioni degli stipendi da parlamentare. Ne mancano un po'. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, eccoci, 349-238-6666 per gli sms, per i messaggi su WhatsApp, anche audio naturalmente. Aspetto come sempre la vostra voce, fatemela sentire. Carmelo Lauricella in regia, Giorgio De Luca in assistenza e redazione. Siamo anche in diretta su Facebook, come sempre, eccoci dunque. Ci trovate anche su Twitter, su Instagram e lo sapete bene, lo sapete bene. Un abbraccio al nostro amico Roby, che ormai ci scrive tutte le mattine, oggi non dalla Milano Meda, ma dalla maledetta Milano Meda, ma da vicino Varese. 4 del mattino, nebbione. Freddo e tanto smog, anche quello è un altro dei temi di questa giornata, sicuramente, soprattutto per la pianura padana. E però oggi iniziamo in maniera un po' diversa dal solito, iniziamo con l'attualità internazionale, o meglio, non diversa dal solito, però ci colleghiamo con il luogo dove stanno avvenendo le cose in questo momento, ossia con l'Iraq. Perché? Perché, come dicevamo, è arrivata quella che è la prima rappresaglia iraniana, che se questo sia veramente da considerare l'inizio di una guerra non lo sappiamo, o non sappiamo quale possa essere poi l'estensione, quale sarà la reazione americana, che cosa succederà nelle prossime ore, però il fatto c'è, la reazione è arrivata molto rapida, forse prima di quanto non ci si aspettasse. Barbara Schiavulli dall'Iraq, ciao Barbara, buongiorno. Buongiorno da Baghdad. Che cosa è successo questa notte dunque? Allora, questa notte sono arrivati una serie di missili balistici, il Pentagono ha detto una decina, gli iraniani ha detto almeno una trentina, che hanno colpito due basi, principalmente quella di Ain al-Assad, che è a 200 chilometri da Baghdad verso il confine siriano e dove sono a distanza 1.500 soldati della coalizione, la maggior parte americani e inglesi. Mentre l'altra è quella di Erbil, dove invece ci sono anche soldati italiani, a nord, più su, e considerata più sicura. Non si sa ancora quali sono stati i danni, Trump ha twittato subito, va tutto bene, stiamo verificando. In realtà forse, dice la TV iraniana, è stato colpito un hangar con alcuni velivoli. Non risultano per il momento, e lo speriamo, vittime. Intanto c'è tutto questo. No, prego, vai Barbara. No, volevo solo dire che da ieri insomma c'è questo movimento di truppe della coalizione che intanto hanno sospeso l'addestramento e il contrasto all'ISIS, e ieri mi trovavo proprio nella provincia di Al-Anbar, dove c'è la base di Ain al-Assad, e la preoccupazione è una zona sunnita quella. La preoccupazione del... Intanto arriva da, lo dico così, da fonte iraniana, e quindi non sappiamo poi l'attendibilità, anche gli americani daranno la loro versione, notizia che sarebbero 80 i morti nell'attacco contro gli Stati Uniti, contro le basi americane. Allora, se il numero di vittime sarebbe questo, insomma, possiamo considerarlo effettivamente forse questo l'inizio della guerra, Barbara, perché come dicevo prima, forse non ci si attendeva una reazione iraniana così rapida, ci si attendeva un'attesa maggiore. Beh, gli iracheni avevano la grande paura che questa guerra cominciasse proprio sulle loro teste, che non ci fosse una guerra frontale America-Iran, ma che invece si combattesse sul suolo iracheno. Questa qui è la grande paura della gente. che poi sui tempi avevano promesso che ci sarebbe stata una risposta, ovviamente nessuno poteva sapere quando e come, è stato molto veloce. La dimensione, se fosse quella che gli iraniani sostengono, e ripeto, sarà naturalmente da vedere perché la fonte è loro, insomma è una grande dimensione, immagino che porterà inevitabilmente una controrisposta americana, è molto dura. Anche se non ci fossero state vittime, io non mi fido molto di quello che dicono gli iraniani, tanto meno quello degli americani. In guerra purtroppo esiste anche l'arma della propaganda, quindi la forza che viene delle parole che vengono usate per raccontare, per una narrazione che ognuno vuole fare al proprio paese. Di fatto però comunque ci sarà una reazione americana, anche se sono state solo colpite due basi senza che ci siano stati vittime, perché comunque verrà considerato un affronto, ma sono 10 giorni che vanno avanti a schermaglie. L'omicidio di al-Soleimani è stato solo una ritorsione di quello che era successo i giorni prima, ovvero l'attacco a una base dove era morto un soldato, un contractor americano, e poi di conseguenza è stato tutto un'escalation. Anche se parlano di de-escalation tutti quanti, in realtà questo è stato qui. Grazie Barbara Schiavulli in diretta da Baghdad per questo aggiornamento, per questo racconto, per questi chiarimenti. Barbara, ti risentiremo nell'arco della giornata, tanto qua su Radio 24 quanto sul prodotto che realizzate voi, che è Radio Bullets si chiama, insomma lo trovate anche in podcast, ci sono molti spunti interessanti e molti racconti interessanti. Grazie Barbara, dunque buona giornata, buon lavoro, ti risentiremo nei GR, ti risentiremo in nessun luogo e lontano, insomma nell'arco della giornata anche qua su Radio 24. L'altro fronte di crisi, perché ce n'è un altro, lo sappiamo bene, anche questo ci riguarda da vicino. Non crediate che il fatto che siamo particolarmente o vogliamo essere particolarmente coinvolti in Libia non renda più lontano il fronte di guerra iraniano, perché come ieri abbiamo raccontato è un fronte altrettanto importante per noi come Italia, per la storicità dei rapporti con l'Iran, anche per i rapporti economici e per tutte le questioni energetiche. E però c'è anche la Libia, come si diceva. Il generale Haftar, anche là, una guerra che è sostanzialmente iniziata, il generale Haftar che ha mosso su Sirte e adesso muove su Misurata. E ieri una riunione dei ministri europei, insomma, si sarebbe dovuta svolgere proprio in Libia, le condizioni di sicurezza non l'hanno consentito. Forse qualcuno dice, gli italiani e gli europei non ce li hanno voluti. Comunque, riunione europea dalla quale se ne esce con, diciamo, il consueto, per così dire, tentennamento. Luigi Di Maio, ci vuole un cessate il fuoco. Questa è una riunione veramente molto importante, perché abbiamo chiesto che l'Europa da domani prenda iniziative importanti sulla Libia. Bisogna parlare con tutti gli interlocutori, convincerli al cessate il fuoco. Come Italia tuteliamo i nostri interessi quando chiediamo all'Unione Europea di essere protagonista, perché ricordo a tutti che la Libia è poche centinaia di chilometri dalle coste siciliane, è un paese fondamentale per il Mediterraneo, ma in questo momento non è solo un rischio per i fenomeni migratori. La Libia è un rischio per l'Europa, anche per il pericolo terrorismo. Francesca Sforza della Stampa, buongiorno Francesca, ciao. Ci sei? Sì, ci sono. Ci sei. Eccoti qua, bentornata. E Francesco Cancellato, vice direttore di Fanpage. Ci sei Francesco? Eccolo. Buongiorno. Allora Francesca, partirei con te, e insomma con la questione libica, che continua a rivelare, per certi versi lo ha fatto anche la vicenda iraniana naturalmente, una certa debolezza in politica estera dell'Unione Europea, e in particolare la questione libica, una certa debolezza anche dell'Italia nello specifico. Allora, diciamo che c'è una debolezza di fondo delle democrazie parlamentari quando si comincia a sparare, perché è evidente che quando sul territorio ci si arma, la linea della diplomazia, la linea del dialogo, la linea dei tavoli diventa una linea estremamente debole, comunque diciamo costretta a giocare di rimessa. Quello che in Libia, e questo vale in questo caso soprattutto per l'Iran, ora la crisi iraniana ha in parte oscurato la vicenda libica, che però non smette di essere drammatica sul territorio, e oggi è una giornata chiave. Oggi è una giornata chiave perché si incontrano a Istanbul il presidente turco Erdogan e il presidente russo Vladimir Putin, e i timori, diciamo, qual è il worst scenario, la cosa peggiore che può succedere? Che questo incontro si trasformi in una riedizione di un altro incontro che c'è stato sulla Siria ad Astana, dove c'è stata di fatto una divisione in sfere di influenza. Ecco, se questo succede anche oggi per quanto riguarda la Libia, quindi con una sorta di tacita divisione dell'area, questo sarebbe davvero, soprattutto per l'Italia, un grosso problema. Questo proprio per evitare tutto ciò, bisogna dare atto al ministro Di Maio che si è molto speso in queste ultime fasi, diciamo, direi in questi ultimi giorni, ma anche in queste ultime settimane, per intensificare il lavoro diplomatico. Un lavoro diplomatico che sconta una fragilità europea e soprattutto cioè un disaccordo, direi, chiaro all'interno dell'Europa, soprattutto con la Francia. Cioè, noi abbiamo un problema con i francesi, mi sembra di tutta evidenza. Sì, e il loro rapporto privilegiato, diciamo, a questo punto con il generale Haftar. Francesco, condividi l'opinione di Francesca Sforza o sei più, come dire, perplesso su come si è mossa l'Italia? No, io la condivido pienamente, sottolineo alcuni passaggi. Cioè, il tema della diplomazia è fondamentale, il tema della conflittualità latente della dialettica italiana con la Francia è un tema che sicuramente pone dei problemi europei di politica estera quando si tratta di parlare di Libia. Aggiungo due dettagli. Il primo, la questione misurata. Misurata è in qualche modo il simbolo di una situazione che diventa ancora più grave. La presa di Misurata o la guerra portata a Misurata sono per le questioni migratorie italiane, perché Misurata, diciamo, è anche il punto in qualche modo di partenza di tutta una serie di flussi migratori, sarebbero quello che fa precipitare la situazione. Poco tempo fa sono già arrivati a Pozzallo, se non sbaglio, delle persone, dei migranti completamente diversi da quelli che abbiamo abituati a vedere. Erano i migranti libici che scappavano dal suolo libico, quindi fondamentalmente non più profughi che hanno fatto, diciamo, provenienti da tutta l'Africa, ma proprio persone della Libia che si muovono verso l'Italia. Ecco, questo per noi è un fortissimo fattore di destabilizzazione, e su questa destabilizzazione in qualche modo sta la nostra debolezza, perché nel momento in cui, diciamo, non ci dovesse essere una soluzione pacifica del conflitto, così come auspica Di Maio, ecco, sarebbero guai soprattutto da questo punto di vista. Naturalmente, ancora Di Maio che chiede un cambio di passo europeo, sentiamolo, ce l'abbiamo Carmelo Larisella? Sono contento che si sia fatta questa riunione. Non importa il dove, si doveva tenere in Libia, ma le condizioni di sicurezza non l'hanno permesso. Ma le iniziative da domani dell'Unione Europea vedranno un cambio di passo. Qua un grande tema che in parte correlato, Francesca Sforza, a quello che dicevi prima, no? La difficoltà delle democrazie parlamentari di, da una parte, delle democrazie parlamentari di affrontare, no, le questioni quando si inizia a sparare, dall'altra parte la difficoltà dell'Europa ad affrontare i momenti nei quali si inizia a sparare, perché, come ci scrive un ascoltatore, un esercito non ce l'abbiamo e quindi è un po' difficile far valere una voce senza avere una forza militare. Certo, ma infatti c'è il problema che è stato sollevato anche in questi giorni da alcuni editoriali, di una assenza di politica estera comune. Politica estera comune non significa soltanto avere una linea comune, ma avere una difesa comune. Questo era anche l'impegno che Ursula von der Leyen aveva all'inizio proprio del suo mandato ripetuto, e ci auguriamo che questa nuova fase per l'Europa però si inauguri, perché queste sono le situazioni di crisi che mostrano una fragilità strutturale dell'Europa. Ci sembra abbastanza chiaro. Facciamo una cosa, sentiamo un'ultima voce di Di Maio che chiede appunto che l'Europa parli con una sola voce. Sentiamolo, ma ce l'abbiamo? C'è una guerra per procura, bisogna cessare tutte le interferenze perché ci sono paesi che interferiscono con quella guerra civile facendola diventare una cosiddetta proxy war, e il nostro lavoro da domani come Unione Europea sarà coeso, l'Unione Europea parlerà e deve parlare con una sola voce. Il traffico, poi cambiamo argomenti e registro. Mattino. Adesso non vi sono più scusanti o alibi da parte di nessuno, sia da parte di Ilva in amministrazione straordinaria, ArcelorMittal e governo. Bisogna intervenire da subito, ottemperando a quelle che sono le prescrizioni previste non solo su AFO2, ma riteniamo indispensabile che siano messi a norma anche gli altri impianti dello stabilimento, che necessitano di manutenzioni ordinarie e straordinarie. Dal governo ci aspettiamo una rapida convocazione, in quanto abbiamo bisogno di certezza e concretezza, ed il tempo non è una variabile secondaria. Bisogna fare presto, non bisogna perdere tempo. E questo è un audio che ci siamo fatti mandare da Biagio Prisciano della FIMCISL di Taranto, alla luce della decisione che è arrivata ieri dal Tribunale del Riesame. Che cosa è successo? Che ha dato l'ok ai commissari di Ilva e resta aperto l'Alto Forno 2, come spesso abbiamo raccontato da questi microfoni. L'Alto Forno 2 è che rimanesse acceso l'Alto Forno 2 era particolarmente importante, perché lo spegnimento dell'Alto Forno può portare in sostanza alla rottura dell'Alto Forno stesso e quindi alla chiusura della fabbrica, alla fine dell'Ilva in sostanza. È arrivata questa decisione dal Tribunale del Riesame, ma devo dirti, caro Francesco Cancellato, che forse la cosa che mi ha colpito di più della giornata di ieri in merito ad Ilva sono le motivazioni dell'assoluzione di Fabio Riva, dell'ex proprietario di Ilva, e sono arrivate ieri dai giudici di Milano, nella fattispecie il GUP Lidia Castellucci, la quale scrive: guardate che non c'è stato un depauperamento dell'azienda, guardate che ci sono stati investimenti ambientali addirittura per 1 miliardo. Insomma, qualche giornale la mette giù dura, penso a Libero oggi, no, che apre parlando di un vero e proprio esproprio nei confronti di Riva. È certo che però quello che leggiamo, no, in queste motivazioni colpisce non poco, Francesco. No, allora, se la questione dell'Alto Forno 2, dello spegnimento dell'Alto Forno 2, diciamo, era in qualche modo prevedibile proprio per i motivi che dicevi tu, è troppo importante che quell'Alto Forno rimanga acceso affinché la fabbrica possa continuare, e in qualche modo svela un bluff. Nessuno vuole chiudere davvero l'Ilva, non la vuole chiudere ArcelorMittal, non la vuole chiudere il governo italiano. La questione Riva in qualche modo complica ulteriormente quello che ormai è proprio un pasticcaccio brutto, nel senso che noi ricordiamo a che cosa aveva portato in qualche modo al commissariamento, ossia l'idea che comunque ci fosse la necessità di togliere la fabbrica ai Riva. Ricordiamo quanto in qualche modo nel discorso comune fosse stato detto che era stata proprio, diciamo, la gestione dei Riva a complicare la situazione del quartiere Tamburi e ad aggravare le condizioni sanitarie delle persone di Taranto, e soprattutto in relazione al famigerato campo minerario, che è diciamo l'area che va bonificata con più fretta, con più necessità, se si vuole in qualche modo evitare i problemi di salute, se vogliono evitare i problemi di salute per le persone a Taranto. Ecco, bisogna vedere a questo punto che cosa ne pensano in Riva di quel commissariamento, che cosa ne pensano in Riva di quell'esproprio, che cosa ne pensano una realtà privata che si è vista scoppiata di pazienda. Se tra ArcelorMittal e il governo si mettesse di mezzo anche la questione Riva, ecco, Diciamo che la situazione si complicherebbe decisamente ancora più di quanto non sia complicata. C'è l'altra crisi aziendale, lo sappiamo, tanto è sempre quella della quale continuiamo a parlare per i prossimi 10 anni, della quale riceviamo notizie: la soluzione arriverà quest'anno, adesso abbiamo trovato la soluzione per Alitalia, e la soluzione ovviamente non si trova mai. Andiamo avanti a prestiti ponte. Quello da 900 milioni già bruciato e quello da 400 milioni appena arrivato, che serve a mantenere momentaneamente in vita la compagnia in attesa di una soluzione che presumibilmente sarà una soluzione ancora con soldi pubblici e quindi con l'intervento statale, tanto che Lufthansa, però insomma i partner industriali dicono: ragazzi, noi ci stiamo, però ci dovete consegnare un'azienda ben ristrutturata. Il responsabile, insomma, ne ha parlato ieri alla Camera, il responsabile di Lufthansa, che insomma si occupa un po' del dossier, il signor Heberard, che dice: è necessario un ridimensionamento. Se tutte queste misure non bastano nel caso di Alitalia, alla fine fa sempre perdita. Si deve anche pensare ad un ridimensionamento, ma non è un fine per se stesso, non è la riduzione delle macchie, delle tratte, la cancellazione delle tratte, la riduzione della flotta implica anche la riduzione del personale navigante, è solo l'ultima ratio, non è come ho detto un fine per sé ridurre il personale, poi si risana l'azienda, si deve provare tutto prima. Perché il vero potenziale dell'azienda è il personale, sono le tratte e l'infrastruttura di questa azienda. Eh sì, però in sostanza si chiede un taglio. I fronti più puramente politici. La prescrizione qua, il tema è la trattativa tra Movimento 5 Stelle e PD, vertici che saltano, che rientrano, poi risaltano un'altra volta, insomma non se ne arriva ad una, perché il Partito Democratico vorrebbe rapidamente che insomma si metta mano alle norme per l'accelerazione dei processi e per evitare questa riforma della prescrizione poi porti a processi infiniti. Zingaretti. Il presidente Conte ha detto che farà dopodomani una sua proposta di mediazione, noi la valuteremo, ma intanto abbiamo depositato la nostra proposta di legge in Parlamento, perché su temi molto delicati come quello di un paese che è civile, se garantisce anche la giustizia a chi vive in questo paese, i termini di mediazione sono molto pochi, e io sulla posizione in questo punto dei 5 Stelle non sono assolutamente d'accordo, e lo abbiamo detto ai nastri di partenza questo. Movimento 5 Stelle un po' dilaniato in questa fase, un po' in difficoltà. L'ultimo elemento è quello delle restituzioni degli stipendi. O di parte degli stipendi che vanno restituiti secondo le norme del Movimento 5 Stelle, e ci sono un po' di morosi. Addirittura ieri Giorgio De Luca mi faceva vedere un deputato che diceva: ho perso la password per restituire, adesso vado a recuperare anche chi è, cioè dovevo fare il bonifico, ho perso la password. L'85% è in regola, dice Perilli del Movimento 5 Stelle, sentiamolo. L'85% dei parlamentari del Movimento 5 Stelle sono in regola con le restituzioni. Questa è una cosa importante, perché sono le stesse persone che hanno garantito già dal 2013 di restituire ai cittadini, per il pubblico e nel pubblico, più di 100 milioni di euro, e questo è il dato a cui noi ci interessa moltissimo. Naturalmente il discorso è anche che l'impegno che è stato preso dinanzi agli elettori al momento della candidatura e delle restituzioni, quindi i restanti che sono indietro, che non hanno restituito, naturalmente nei loro confronti verranno aperti delle procedure disciplinari. Dalia Ranesci del Movimento 5 Stelle, buongiorno. Eccoci. Lei, come il deputato Cappellani, la password l'ha persa? La conosco da lontano 2013, perché ho restituito più di 170.000 euro. Tanti di voi l'avrebbe fatto, ma io l'ho fatto volontariamente. E adesso ha smesso, però? Sì, adesso per protesta ho messo in atto questa nuova strategia per fare focus su diciamo, l'impegno politico ad alcune latitudini in particolare, perché sono stata eletta in Calabria e devo al mio territorio tanto, tanto impegno che secondo me il Movimento 5 Stelle non ha messo a pieno. Quindi io continuo a fare restituzione di parte dei miei stipendi, ma ho deciso di donarlo ad associazioni sul territorio e non rendiconterò più quindi sulla piattaforma. Ha deciso di non rendicontare più sulla piattaforma. Rischia l'espulsione lei, Nesci? Non lo so sinceramente, penso che non dovrebbe più il Movimento 5 Stelle usare il motivo della rendicontazione come una clava mediatica contro alcuni di noi portavoce, perché il gesto di donare liberamente parte del proprio stipendio lo fa solo il Movimento 5 Stelle, non lo fa nessun altro partito in Italia, quindi non capisco per quale motivo dobbiamo svilire le nostre azioni che avevano anche un messaggio culturale rivoluzionario, cioè di non mettere il denaro al centro del proprio impegno politico, delle motivazioni che ci spingono a stare in politica. Invece, insomma, l'abbiamo trasformata in un'azione continuamente politica. Una clava dei, cosa intende per una clava dei vertici del partito, cioè di Di Maio in sostanza, dice sì, lei, Nesci? Sì. A partire dai vertici, che purtroppo sono si riverbera anche il dato la nostra comunità, alcuni anche in buona fede. Io dico sempre: non alimentiamo questi non argomenti, guardiamo le travi che ci sono negli occhi del Movimento 5 Stelle, perché sono problematiche che noi abbiamo sempre avuto, in quanto mancano processi democratici interni che ci consentono di arrivare alle decisioni e ad una strategia politica. Più passa il tempo e più la cosa diventa grave e insostenibile per quanto mi riguarda. Perché è da tempo che diciamo che dobbiamo organizzarci anche in senso democratico interno, ma questa cosa non avviene mai. Ma ci resta nel movimento Nesci oppure no? Se ne va? Sì, secondo me dovrebbero andarci da quelli che i valori del Movimento 5 Stelle l'hanno tradito o comunque travisati. Però siccome non faccio io il censore come fanno alcuni miei colleghi nel giudico, dico che io non me ne vado e metto in atto le proteste, gli strumenti che ritengo per mandare dei messaggi molto chiari e penso forti. Grazie, Dalila Nesci del Movimento 5 Stelle. Forse abbiamo tempo prima di chiudere, nel ringraziare Francesca Sforza della Stampa e Francesco Cancellato, vice direttore di Fanpage, di far ascoltare una testimonianza all'Australia che abbiamo raccolto ieri, una testimonianza da Sydney, un racconto di questi incendi. Sentiamo, va. Ciao, il mio nome è Luca, vivo a Sydney da 9 anni. La situazione degli incendi è abbastanza tragica, ci sono praticamente incendi a nord, a sud e ad ovest praticamente della città. Uno degli episodi che mi ha colpito di più è stato il 16 dicembre, ero in città per lavoro e praticamente nell'arco di un'ora la città si è completamente coperta di una nuvola che era ovviamente cenere proveniente dalle Blue Mountains che sono ad ovest della città, e praticamente non si poteva respirare. Ha dovuto prendere una maschera poi per tornare in ufficio. Australia, dove oggi troverete un po' sui giornali questa notizia delle 183 persone arrestate. Occhio là, perché si tratta di 183 persone indagate dall'inizio di novembre, di cui solamente 24 sono accusati di incendio doloso, gli altri sono persone che o hanno acceso un barbecue o hanno gettato una cicca di sigaretta. Quindi occhio con questa notizia dei piromani. Una pausa, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa con Paolo Mieli. A dopo, ciao.